Vabbè, abbiamo parlato del restringimento, no? Ci sono altre strutture che invece si fondano su un'altra base fondamentale, che è l'immunizzazione, o addirittura l'ostilità. Ecco, per esempio, la struttura narcisistica, in generale, tutte le strutture che si basano su un attaccamento disorganizzato. Beh, queste strutture tendono ad avere dietro questo modello l'ostilità. Ecco, vuol dire che non si limitano a restringere gli interessi, no, no, ma attaccano colui che esprime un'idea differente. Ecco. Questo è bene saperlo perché molte volte nel dialogo con le persone si rimane stupiti del perché qualcuno diventi così aggressivo. Diventa aggressivo perché si è toccato un suo territorio cognitivo che lui difende, come un gatto difende come un gatto difende il territorio suo. Ecco. C'è un'altra di queste strutture che si chiama l'immunizzazione, cioè una persona non è che attacca, non è che restringe i suoi interessi, lascia parlare l'altro, ma assolutamente non gli entra nulla. È impermeabile, ecco, diventa impermeabile a quello che l'altro gli dice. Ora, sto parlando di comunicazione, ma in realtà la comunicazione e lo stile di pensiero, sono qualcosa che sono sempre imbricati, ecco, quando io parlo con qualcuno a contatto col suo stile di pensiero e naturalmente col mio. Ecco. Ho parlato di questo per far comprendere, semplicemente una cosa che a volte non è chiara, che i nostri aspetti cognitivi non sono quasi mai liberi. Noi crediamo di poter decidere col nostro pensiero, il nostro pensiero è spesso soggetto a fenomeni che rientrano piuttosto nel campo dell'emozione, perché hanno a che fare con le strutture primarie, con il nostro attaccamento appunto ai genitori, con le prime esperienze di vita, e quindi siamo più o meno liberi di avere un pensiero aperto se abbiamo una base sicura. La base sicura non si acquisisce solo con i genitori, fortunatamente è possibile acquisirla anche dopo, ma non è così semplice. Ecco, quindi proprio per tornare al pensiero, al discorso che interessa a Boris, per avere una maggiore apertura mentale, non cadere nella stupidità collettiva, cioè non cadere nelle induzioni collettive, è tanto più opportuno sviluppare una base sicura, cioè una forma di appartenenza, per esempio, a gruppi in cui ci si riconosce. Ecco, questo può aiutare anche una persona che, per esempio, ha avuto un difficile attaccamento con i propri genitori. Va bene, ho parlato delle supersonalità. Le supersonalità sono note in psicopatologia, non con questo nome, con altri nomi. Vabbè, una prima cosa che si impara studiando le supersonalità è che esse convivono nella stessa persona, non è che ne abbiamo una sola. Anzi, gli studi più recenti dicono che ne abbiamo praticamente quasi tutte. Quello che cambia da una persona all'altra è, diciamo, quanto incidono sulla nostra vita. Alcuni sono praticamente liberi dal loro dominio, altri invece sono soggetti. E quindi il loro io, il loro governo della personalità è soggetto a strutture che influiscono, come se fosse, non so, un governo di un paese che fosse influenzato da dei grossi centri di potere. Bene, vorrei dire qualcosa a proposito del rapporto tra supersonalità e stile di pensiero. Allora, una supersonalità, quando ci identifichiamo in essa, quando non la riconosciamo, ci domina. Diventa stile di pensiero, cioè diventa stile di pensiero quando riusciamo a disidentificarci, cioè quando la riconosciamo. Quindi, quello che nella psicologia si impara è quello a cui Boris è giunto attraverso tutt'altra via, che cioè la consapevolezza si ottiene attraverso la presa di distanza dalle proprie posizioni, cioè attraverso la disidentificazione. Bene, questo è un contributo che la psicologia del profondo, ma anche la psicologia cognitiva, ci fornisce ed è una base, ampia base su cui possiamo contare per lavorare su come espandere la nostra consapevolezza. Riprendo la mia lista qua davanti. Qui avevo messo le subpersonalità, ho detto che ci sono varie subpersonalità, ognuna di queste subpersonalità, lo ripeto, quella ossessiva, quella paranoide, quella depressa, quella schizzoide, ecco, quella istrionica, no, quella narcisista, quella narcisista, tutte queste subpersonalità possono, se ci si lavora sopra, se si è in grado di disidentificarsi, trasformarsi in stili, cioè in preferenze, dei modi di pensare. Allora, per esempio, la subpersonalità ossessiva diventa uno stile coscienzioso, cioè uno stile attento alle cose, no? Quindi una persona puntuale, affidabile. Lo stile, la subpersonalità paranoide, che apparentemente non sembra avere nessuna risorsa, in realtà ce l'ha. Appena lasci andare l'identificazione, ti liberi dai contenuti emozionali più forti, e quindi, ecco, si trasforma in stile vigilante. Cioè, vigilanza nella vita vuol dire attenzione a quello che potrebbe succedere. Quindi, per esempio, in un gruppo uno stile vigilante è importantissimo. È facile, per esempio, certe volte che insomma, in un gruppo in cui si fa un progetto, entusiasmarsi e pensare agli aspetti positivi del progetto. E lì uno stile vigilante, uno stile che è più cauto nell'entusiasmarsi è utile, in modo poi da rendere questo progetto effettivo. Sto già quindi cominciando a dire che gli stili di pensiero sono una ricchezza e è bene che ci sia biodiversità, sia all'interno della stessa persona, sia all'interno dei gruppi e sia poi una collettività. Tornando a uno degli spunti adesso random del libro di Boris, c'è un punto dove Boris dice gli stili di pensiero e le culture. Fa un parallelismo e dice che le culture in cui si possa individuare una certa omogeneità, ovviamente, tendono a favorire uno stile di pensiero. Ad esempio, uno stile di pensiero dogmatico o uno stile di pensiero libero. Ecco. Bene, quindi c'è un collegamento tra culture in cui viviamo e stile dominante di pensiero che viene favorito da quel campo, che noi chiamiamo campo morfico, genera un determinato stile di pensiero. Naturalmente, in una cultura come la nostra di oggi, è visibile qual è uno stile di pensiero che viene fortemente favorito, che è uno stile di pensiero accumulativo, cioè la formazione avviene per accumulo di dati. E non viene sfavorito per niente uno stile di pensiero critico, cioè di consapevolezza sui propri pensieri. Questa è proprio l'ultima cosa alla quale la nostra cultura è interessata. Ma quasi tutte le culture non sono interessate a questo, giusto? C'è stato probabilmente il periodo storico dei greci, quando c'era Socrate, Platone, Aristotele. In quel periodo lì probabilmente c'era una parte della cultura greca che era, almeno per quello che ci arriva, interessata a sviluppare questo tipo di pensiero. Ma di solito le culture, per sopravvivere, tendono a creare un tipo di conformismo su uno stile di pensiero. Se questo conformismo è troppo ampio, la cultura poi si indebolisce, come un animale che ha delle strutture molto adattate a un determinato ambiente, in caso di cambiamento climatico è il primo a sparire, insomma. Quindi la biodiversità, non solo nelle strutture fisiche, ma anche nelle strutture di pensiero, è uno dei principali fattori di sopravvivenza, ecco, che ci consente lo sviluppo dell'intelligenza, quindi la sopravvivenza. Vado avanti nella lista. Ecco, oltre alle subpersonalità c'è un'altra tematica che è fondamentale per chi si occupa di questo tema, che è quello dei tipi umani. Mentre le subpersonalità in qualche modo richiamano una psicopatologia, i tipi umani no. I tipi umani parlano di caratteristiche degli esseri, di determinate strutture mentali, come può essere la struttura fisica. Uno che è longilineo, uno che invece è brevilineo, ecco per dire. E così esistono dentro la mente degli uomini delle strutture preferenziali. studio di tipi umani è uno studio, tra l'altro, che viene fatto poco nella psicologia ufficiale, nella psicologia accademica. Di solito all'università non si studiano i tipi junghiani, né si studiano i tipi di Assagioli, né si studiano altre tipologie. E questo non è un bene, perché invece lo studio di tipi umani conferisce una flessibilità al pensiero che altrimenti è difficilmente raggiungibile. Bene, parlo un po' di storia personale. Incontrai i tipi junghiani, incontrai, si fa per dire, quando andammo in California con Carolina, residemmo un mese laggiù e era un periodo in cui facevo ricerca proprio sul tema della personalità e quindi laggiù avevo modo di accedere a biblioteche molto fornite. Ebbene, ci fu un libro che incontrai, che Type Talk, un libro adesso non ricordo gli autori, insomma, un libro che parla proprio dei tipi umani, dei tipi umani junghiani. E questo libro è un libro straordinario. Un libro che poi abitavamo a casa della nostra amica, quando lei tornò la sera, gli feci vedere il libro appena acquistato e lei, sorridendo, andò in camera sua e me ne fece vedere che ne possedeva già una copia. E mi disse: "Questo libro è molto noto qui da noi." E lei, che lavorava in una grossa azienda, dice: "Ma anche nelle aziende questo test è ben conosciuto perché si fanno molti corsi di formazione sui tipi umani." Allora pensai che questo poteva essere un notevole arricchimento del nostro lavoro anche qui in Italia. E da allora iniziamo effettivamente a introdurre la tematica dei tipi umani. In breve, ai fini del nostro discorso, i tipi junghiani, la versione poi soprattutto quella americana, che è molto più fruibile, è molto più semplice, più praticamente utilizzabile, si fonda su solo quattro distinzioni. Pensate, solo quattro distinzioni. Una delle quali è nota a tutti, estroverso-introverso. Poi ce ne sono altri tre, intuitor e sensor. Intuitor cosa vuol dire? Intuitor è colui che tende a portare attenzione al pensiero più astratto, ad avere quindi una visione più ampia delle cose. Il sensor invece tende a guardare come diciamo noi, chunk piccoli, cioè porzioni piccole di realtà, quindi ai dati concreti, sensoriali. Poi un'altra coppia è thinker e feeler. Feeler è colui che dà soprattutto attenzione ai sentimenti, a quello che lui prova. Il thinker invece porta attenzione al pensiero, anche lui astratto, ma è diverso dal rapporto tra intuitor e sensor. Qui ha a che fare col modo in cui noi prendiamo delle decisioni. Il feeler decide in base alla situazione del momento, il thinker in base a una visione più ampia. Per esempio, nevica, un bambino deve andare a scuola, un genitore thinker dice: "Beh, i bambini ci devono andare anche se nevica, non è un fatto, cioè tutti, la scuola è importante." Un genitore feeler probabilmente si metterà più nei panni del bambino e dirà: "Non vorrei che prendesse freddo" e così via, lo tiene a casa magari. Un'altra distinzione tra judger e perceiver. È una distinzione molto importante, detta in termini che, proprio parlando di Boris è un compositore. Il judger è un compositore, il perceiver è un improvvisatore. Il judger prevede, ha molta familiarità con il pensiero procedurale, mentre il perceiver gioca sul momento, si lascia sempre le porte aperte. Bene, vi ho parlato di quattro coppie, quattro distinzioni, che sono così potenti che in base ad esse si può prevedere tantissimo del modo in cui una persona ragiona nelle diverse situazioni. I tipi junghiani sono, nella versione americana, sono il test psicologico forse più affidabile che conosciamo. Pensate che addirittura le persone esperte in questo settore, quando vanno a lavorare in un'organizzazione, cosa fanno? non chiedono quali sono i problemi su cui si vuole lavorare, ma fanno direttamente questo test, un test che non è difficile da fare. Dopodiché sono loro che dichiarano quali sono i problemi dell'organizzazione e si confrontano con i dirigenti. La cosa sorprendente è che di solito ci pigliano, senza sapere nulla di un'azienda o di un'organizzazione, semplicemente facendo un test che riguarda queste strutture, riescono anche a prevedere, a comprendere quali sono sicuramente i problemi che quella organizzazione ha. Vi sto quindi parlando di strutture che sono state studiate moltissimo e che c'è una letteratura immensa su questo. Bene, posso parlare personalmente, anche nella nostra coppia, io e te Carolina, da quando abbiamo conosciuto bene queste strutture ci siamo resi conto che abbiamo tipologie diverse. Io sono più estroverso rispetto a te, tu sei più sensor rispetto a me, io solamente sono più intuitor, tutte e due siamo abbastanza feeler e tutte e due abbastanza perceiver, però in certe situazioni tu sei più judger. Bene, queste strutture hanno consentito di comprendere le dinamiche della nostra coppia. Gran parte delle dinamiche della nostra coppia dovute non a buona o cattiva fede, a buona intenzione o no, ma a strutture, modi di funzionamento del nostro cervello, cioè a stili di pensiero. Ecco. Quindi, per andare incontro al desiderio di Boris di portare contributo su che cosa oggi si sa sugli stili di pensiero, bene, sicuramente le tipologie junghiane hanno molto a che fare col modo in cui noi pensiamo. Ho detto prima che la tipologia junghiana non è l'unica delle tipologie, c'è ad esempio quella di Assagioli, fondatore della psicosintesi. Lui distingue sette tipi umani: il tipo volontà, il tipo amore, il tipo creativo artistico, il tipo attivo pratico, il tipo scientifico razionale, il tipo organizzatore. Il sesto devozionale e il settimo l'organizzatore. Sono tipi diversi da quelli junghiani, ma che hanno una certa sovrapposizione. Ma se le tipologie come gli stili di pensiero, dobbiamo sempre sapere che le nostre categorie sono sempre strumenti che cercano di creare delle distinzioni, ma è come tagliare una torta. La torta è quella, la posso tagliare in due, in quattro, in sei, in otto, a seconda, la posso tagliare in una certa direzione, in un'altra, posso fare fette quadrate o rotonde, posso farle in mille modi differenti, ma la torta è quella. Abbiamo quindi da una parte le quattro distinzioni junghiane, dall'altra le sette tipologie di Assagioli. Anche queste tipologie corrispondono a modi di pensare differenti, a stili di pensiero, proprio nei termini di Boris, quindi preferenze dei modi di pensare. E non hanno nulla a che fare con le patologie. Sono proprio modi di funzionamento della mente. Adesso voglio introdurre un altro tema. In PNL, PNL, programmazione neurolinguistica, è uno dei modelli che sui stili di pensiero probabilmente ha più da dire, nel senso che è la PNL lo studio dell'esperienza soggettiva, quindi come noi funzioniamo, e la PNL ha la caratteristica di essere molto sensor, cioè di andare a verificare le proprie affermazioni e non generalizzare. C'è uno dei postulati della PNL è che ognuno ha un cervello fatto a modo suo, che non è uguale a quello degli altri, ovvero magari l'hardware sì, ma i programmi che ci sono finiti dentro spesso sono diversi. Una delle affermazioni di fondatore della PNL, Bandler e Grinder, è questa: che se uno per 10 minuti potesse entrare e vedere il mondo attraverso il cervello di un altro, sarebbe un'esperienza altrettanto forte che prende una buona dose di LSD. Quindi non siamo uguali. Il nostro modo di funzionare della mente è diverso. Bene, in PNL, parlando proprio delle prime cose, è diverso una persona che pensa prevalentemente in visivo, una che pensa in auditivo e una che pensa in cinestesico. Sono proprio modi differenti di stare al mondo. Chi pensa in visivo si fa rappresentazioni per immagini, chi pensa in auditivo si parla dentro, e chi pensa in cinestesico soprattutto partecipa col corpo ai movimenti del pensiero. E sembra strano, ma anche il cinestesico è un tipo di pensiero. Ecco. o comunque una componente molto forte. Naturalmente tutti siamo visivi, uditivi, cinestesici, ma la componente, la quantità di uno o dell'altro cambia all'interno delle persone. E questo fa una notevole differenza. Quindi possiamo avere uno stile di pensiero più visivo, uno stile di pensiero più uditivo, uno stile di pensiero più cinestesico. E sempre per l'interesse di Boris, che è quello di favorire la sopravvivenza sul pianeta e quindi di renderci più consapevoli, e quindi alla fine per comunicare meglio e quindi passare dal conflitto al dialogo, che è poi il tema che interessa Boris, beh, la conoscenza che le persone funzionano in visivo, uditivo e cinestesico non è rilevante. Se ho a che fare con una persona visiva, utilizzare metafore visive molto facilita molto il rapporto e quindi toglie le strutture difensive. Mentre se uso una modalità cinestesica, qui parla in visivo, senza nemmeno sapere perché i contenuti possiamo essere anche d'accordo, ma si crea una forma di diffidenza. Okay. Bene, queste sono informazioni che non tutti conoscono e quindi le ho volute dare. Poi, prendere a ruota libera, senza nessuna pretesa di sistematicità, anche in PNL, ci sono delle strutture che si chiamano metaprogrammi, cioè programmi che sovrattengono tutti gli altri, che appunto sono strutture che potremmo definire parte essenziale di stili di pensiero. Una di queste è opzione e procedure. Ci sono persone che sono interessate soprattutto a seguire delle procedure previste, stanno bene se posso fare questo, e altri che ci stanno stretti con le procedure e che amano soprattutto muoversi liberamente col pensiero e anche nell'azione. Ad esempio, io sono una persona procedurale, no, sono una persona opzione. Tra l'altro, opzione è parte del. Guarda, vedi, si sovrappone col tipo junghiano Persever. Chi è Persever e chi è opzioni sta molto stretto all'interno di situazioni, contesti dove si richiede e si valorizza il pensiero procedurale. Ad esempio, per me non è facile apprendere il computer perché è quasi tutto procedure e le procedure li vanno eseguite con molta precisione. Le procedure sono, proprio per vedere, sono parte anche dello stile di pensiero ossessivo. Quando io ho fatto giurisprudenza, che era un tipo di studio che non mi era congeniale, guarda caso, ho sviluppato una subpersonalità ossessiva. Cioè ho dovuto sviluppare un tipo di stile di pensiero che non mi è congeniale, ma che era necessario perché io potessi fare giurisprudenza. Giurisprudenza è procedure, si devono imparare le norme, bisogna capire come sono fatte. Ecco. Non c'è un grande spazio per trovare altre strade, bisogna imparare soprattutto quelle, bisogna immagazzinarle, saperle ripetere, saperci lavorare dentro. Per fare questo ho dovuto in gran parte violentare la mia struttura mentale e ce l'ho sofferto, devo dire, di questo. Anche nella musica mi è successo questo. Io studiavo violoncello e avevo un maestro particolarmente, che aveva pretese molto alte, era molto persona alto livello di pretesa, di richiesta, insomma. Per adempiere a questo tipo di scuola, io dovevo sottomettermi a un tipo di pratica quotidiana che non mi era affatto congeniale, che è quella della ripetizione continua di determinate. E penso di essere sopravvissuto a questo grazie al fatto che comunque mi davo sempre degli spazi di improvvisazione, mi lasciavo comunque libero dei momenti di improvvisazione. La mia è una struttura Persever, come ho detto in termini junghiani, opzioni in termini di PNL, in termini di Assagioli sono più un creativo artistico, e quindi stare dentro situazioni troppo irrigidite genera in me sofferenza. Non mi sono congeniale. Capire questo serve non solo a me, ma serve anche alle persone intorno. Se io devo dialogare con qualcuno, questo dialogo avverrà più facilmente se non mi trovo a svolgere questo dialogo in strutture di tipo, precostituito. Come vedete, vi sto parlando in modo molto libero. Questo a me non costa fatica. Se dovessi mettere queste strutture, questo tipo di pensieri in modo sistematico, questo mi costerebbe molta più fatica. Lo so fare, l'ho imparato a farlo, ma non sono io quando faccio questo. Non c'è la mia energia vitale si spegne, ecco. Altri metaprogrammi della PNL, chunk up, chunk down. Ci sono persone chunk up, sono quelle che parlano in alto livello di astrazione. Chunk down è quello che parlano di cose sensorialmente basate. Quindi anche questo richiama i tipi junghiani. Quindi i tipi junghiani, quindi che cosa? Il tipo intuitor e il tipo sensor. Chunk up e chunk down sono strutture che se non si è consapevoli di questo ci possono avere molti problemi nel dialogo con le persone. Perché se si incontra una persona fortemente chunk down, fortemente chunk up, possono anche essere magari d'accordo su certi pensieri, ma alla fine rischiano di litigare. Ecco, quindi quello che sto dicendo è che essere consapevoli dei propri stili di pensiero, delle proprie tipologie, serve a che cosa? All'armonia dei rapporti. Cioè serve al rispetto delle proprie caratteristiche e al rispetto delle caratteristiche altrui. Soltanto in questo modo possiamo creare le condizioni del dialogo a cui appunto siamo interessati, che poi è il tema che ci unisce, unisce la nostra ricerca a quella di Boris. Riprenderemo domani questo argomento. Grazie.